Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Torniamo a parlare di politiche dei tempi stasera. Dovete sapere che è davvero sorprendente il numero di persone che arrivate in aeroporto scopre di avere la carta d'identità scaduta. Naturalmente è un bel problema per chi si trova in questa situazione ed è un problema che va risolto molto rapidamente o altrimenti si perde l'aereo. Ma è un bel problema anche per chi deve gestire questo tipo di situazioni. Ebbene, pensate che a Orio al Serio, che è un comune di 1800 anime sul cui territorio sorge però un grande aeroporto molto frequentato, l'ufficio anagrafe finiva per esempio per trovarsi costantemente ingolfato da cittadini italiani, persino da cittadini stranieri che avevano bisogno di rinnovare il documento di identità. Che cosa si sono inventati al comune di Orio per risolvere questo problema ce lo racconta Chiara Albicocco. Sentite. È stato il primo aeroporto, quello di Orio al Serio a Bergamo, ad aprire un ufficio comunale tra le mura dell'aeroporto stesso. Ci racconta il valore di questo servizio il vice sindaco di Orio al Serio, Alessandro Colletta. Buonasera, vice sindaco. Buonasera. Quando, Colletta, avete sentito come amministrazione l'esigenza di aprire uno sportello comunale in aeroporto? L'esigenza è nata vuoi perché l'aeroporto stava assumendo dimensioni più grandi e quindi il numero di passeggeri è aumentato in maniera esponenziale, e vuoi perché il comune di Orio, proprio perché è un comune comunque di dimensioni, per così dire, ridotte, 1800 abitanti. Ah, ecco. Sentiva la necessità comunque di non ingolfare troppo la macchina comunale all'interno del paese e quindi ha deciso di delocalizzare con un ufficio, diciamo, che è il nostro ufficio anagrafe presso l'aeroporto. Quindi che servizi vengono erogati in aeroporto? In aeroporto vengono erogati un servizio di carte d'identità rivolto a tutti i cittadini, non solo di Orio, ma a tutti i cittadini italiani che abbiano naturalmente la residenza presso il comune italiani. Ecco. Ma se non sbaglio anche cittadini che arrivano a Orio dalla comunità europea avete la possibilità di assistere per quanto riguarda il rinnovo della carta d'identità? Sì, è possibile, anche se la cosa diventa un po' più complicata, perché contattare, visto che il nostro addetto deve comunque contattare per avere il nulla osta gli equivalenti dei comuni, quindi italiani e comunitari, diventa un po' diciamo più difficile seguire l'iter, e spesso e volentieri il cittadino che comunque extracomunitario si reca da noi non sempre, ahimè, riesce a trovare il risultato, perché dall'altra parte non abbiamo le risposte per poter erogare la carta d'identità, il documento di identità, diciamo, con tutte le regole a posto. Ecco, perché c'è proprio anche una questione di orari. Spesso noi qui parliamo di pianificazione dei tempi e significa proprio questo, perché ovviamente un cittadino dalla Finlandia può arrivare alle 6 del mattino e a quel punto l'ufficio comunale a Orio sarebbe chiuso. In aeroporto a che ora apre? Allora, noi anche in questo caso abbiamo cercato di andare incontro in tutti i modi a quelle che sono le esigenze del cittadino e dei nostri clienti, mi permette di chiamare i clienti, e quindi abbiamo un orario di apertura assolutamente più consono a quelli che sono gli orari dell'aeroporto, quindi il nostro addetto arriva alle 7 del mattino e fa orario continuato, quindi garantendo una presenza anche durante gli orari del pranzo, dove solitamente in comune l'ufficio anagrafe è chiuso, fino alle ore 17 del pomeriggio, quindi un orario continuato 7-17, compreso il sabato mattina. L'iniziativa mi pare che abbia avuto successo, più o meno, non le chiedo i numeri, ma le sembra che insomma i cittadini, quelli che arrivano e quelli che partono, siano contenti di questo servizio. Beh, vorrei vedere, è capitato a tutti. Le dirò, guarda, ho avuto attestati di stima e addirittura siamo finiti sui giornali, perché alcuni cittadini, proprio perché gli abbiamo evitato di perdere una vacanza piuttosto, certo, che un aeroplano, un incontro di lavoro, hanno voluto testare questo facendoci un attestato di stima, anche attraverso, addirittura qualcuno ha regalato dei cioccolatini, ma questi sono aneddoti diciamo locali, certo. Le posso dire che nel 2011 abbiamo erogato qualcosa come 1000 carte d'identità. Ecco, quindi va bene, non è proprio un fenomeno non diffuso, dimenticarsi di rinnovare la carta d'identità. Quindi mi pare che insomma il successo c'è stato, anche perché l'iniziativa poi mi sembra che sia diffusa. Adesso voi l'avete aperto da circa 5 anni, se non sbaglio. Esatto. Ma l'iniziativa si è allargata a macchia d'olio, so che anche Malpensa, Roma, insomma, si sono attrezzati, ma voi siete stati i primi. E diciamo che questa iniziativa ha forse anche un duplice aspetto importante, che è quello anche di non togliere, come dire, le competenze e il tempo a quelli che invece sono i vostri cittadini, cioè nel comune, in municipio. Assolutamente, noi non potevamo non essere attenti anche alle esigenze dei nostri cittadini, che benché pochi, perché siamo, come ripeto, siamo in 1800, spesso si trovavano a dover affrontare la fila, la coda all'ufficio Naira, perché avevano magari davanti 4-5 clienti non cittadini, ossia 4-5 passeggeri che per il motivo, per dimenticanza o smarrimento, si trovavano a dover rinnovare la carta d'identità. È importante che i cittadini ritrovino i servizi che il comune offre anche fuori dalle mura del municipio propriamente detto? Ma assolutamente sì, anche perché è capitato che anche i nostri cittadini utilizzassero questo servizio. Alcuni cittadini nostri che la mattina, visto che abbiamo, come le dicevo, è aperto dalle 7 del mattino, quindi al di fuori degli orari di lavoro, spesso alcuni cittadini che naturalmente non pagano in questo caso, perché il costo, c'è da rammentare che il costo del servizio, visto che c'è un'istruttoria abbastanza articolata, la carta d'identità viene erogata al costo di 60 euro, i cittadini naturalmente a questo costo non vengono gravati, si sono recati presso direttamente presso l'ufficio Naira dell'aeroporto. Sì. Come si chiamano i cittadini di Oralserio? Oriesi. Ecco, anche un oriese sarà smemorato se sarà dimenticato di rinnovare, sì. No? Ecco. E quindi ha trovato. No, anche nell'iter normale, cioè è scaduto, piuttosto di nell'ufficio anagrafe alle 10 prendersi netta giornata di ferie, vanno alle 7 del mattino, l'addetto peraltro conosce uno per uno tutti gli oriesi, perché come ripeto siamo molto pochi, e eroga fa la nuova carta d'identità. Ecco, io non so quante amministrazioni pubbliche ricevano abitualmente cioccolatini come segno di ringraziamento da parte dei propri cittadini, ma ritengo piuttosto poche. Questo dovrebbe farci riflettere sulla utilità di iniziative anche piuttosto semplici come questa. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.